Volevo dirvi che siete una delle poche cose rimaste della vecchia vita e quindi devo dire che mi date un senso di abitudine di quello che avevo prima del coronavirus. Grazie. Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Buongiorno Deborah. Di riconoscente, è rimasto qualcuno di riconoscente in questa vita, Mauro? Ma infatti, ma mi stai ringraziando per qualche cosa? Perché ieri non c'ero, perché sono rientrato. O non sei no, tu che no. stai ringraziando me? No. Ieri mi sono sentita molto a disagio per la tua assenza, quindi te lo dico. Tra l'altro ho dovuto fare anche un turno doppio, mi sono incaricata anche di Focus Economia. E ieri sera a Focus Economia abbiamo raccontato una notizia che oggi mi piaceva riportare anche tra di noi, se qualcuno se la fosse persa. Sai che cosa ha fatto IKEA? Un mobile dal nome impronunciabile, no? Come al quello solito, quindi. Quello senza meno. Ma in realtà adesso, ovviamente, anche per scatenare, come sempre, tutti gli ascoltatori che diranno che facciamo pubblicità anche a loro, noi la faremo solo se a patto che vendano dei mobili su Amazon. Allora, certo. Ti racconto un po' che cosa è successo. Le conseguenze della pandemia sono state meno gravi del previsto, per loro, Per e IKEA. Dopo il lockdown, i negozi, esatto, sono tornati velocemente a riempirsi di clienti. D'altronde, oltre a cucinare come dei forsennati, in questo periodo qualcuno si è dato anche al bricolage, al fai da te e magari ha riorganizzato anche le stanze della propria abitazione. Allora, per questo motivo IKEA, che non ha registrato una penalizzazione eccessiva del proprio volume d'affari, ha deciso, senti questa Mauro, apriti bene le orecchie perché è incredibile, ha deciso di restituire a 9 governi nazionali i fondi ricevuti come ammortizzatori sociali, in particolare misure di sostegno al reddito dei lavoratori. Non è successo in Italia tutto ciò, ma è successo in Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Irlanda, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Stati Uniti. Hai visto? E te quindi loro aspettato? Ridanno i soldi che gli stati avevano messo sì. a disposizione perché hanno ritenuto di poter affrontare serenamente, senza effetti sui loro dipendenti, il momento della pandemia. Questa è un po' la lezione di IKEA, e questo è il senso della notizia, Deborah. So che ne ha parlato penso anche di sì, cioè... la retail operations manager di Inga Group. Adesso mi si è attorcigliata la lingua per dirlo, però ha detto però proprio. Però è un nome facile, lei si chiama Olga Onku. Ha detto: ora che ne sappiamo di più rispetto a febbraio o marzo, abbiamo deciso che la cosa giusta fosse dire ai governi: grazie ragazzi, ci avete aiutato in questo periodo difficile e ora vi rendiamo la cortesia. Questo però, precisiamo, non riguarda l'Italia. Noi esatto. rivolgiamo nel nostro piccolo una preghiera, magari vedete se potete fare lo stesso anche in Italia, perché anche a noi, non, insomma, se volete rinunciare ai fondi e garantite comunque il sostegno ai dipendenti, noi non siamo assolutamente contrari, mi pare, Deborah. Assolutamente. Vabbè, insomma, una notizia interessante anche nell'approccio, insomma, di questa azienda nei confronti del mondo ammortizzatore sociale, e però non è il tema del giorno, perché il tema del giorno, beh, diciamo che essendosi un po' liberate delle risorse, magari i dipendenti non hanno la cassa integrazione in questi paesi e quindi hanno un po' più risorse per risparmiare, magari sottoscriveranno qualche PIR, non lo so, ma in realtà, come dicevamo, non succede in Italia tutto ciò, ma in altri 9 paesi, e questo, insomma, per fare un po' un legame folcloristico con il tema che affronteremo questa mattina, visto che è giovedì, c'è la puntata di Investire Informati, e visto che molti di voi ce l'hanno chiesto, perché stanno facendo un pochino un check-up alla propria situazione in qualità di investitori e risparmiatori, qualcuno ci sta chiedendo di tornare sul tema PIR, i prodotti individuali, appunto, di i piani individuali di risparmio, che hanno avuto un enorme successo nel 2017 quando sono stati lanciati. Poi un piccolo intoppo legislativo ne ha frenato la nuova raccolta e la nuova sottoscrizione. Adesso stanno rimodificando di nuovo faccia, perché l'industria del risparmio gestito si starebbe lanciando con PIR di nuova generazione, PIR alternativi. Quindi un mondo ancora in fermento che vale la pena stamattina spiegare, caro Mauro. non solo ai nostri ascoltatori, ma anche a noi, perché abbiamo bisogno di capire cosa sta accadendo. E lo raccontiamo volentieri, ci aiuterà, sarà il nostro ospite tra poco, Simone Binismaghi, vice direttore generale di Arca Fondi SGR. Io intanto vi ricordo i numeri: 800 24 00 24 è il numero verde per entrare in contatto con noi, oppure c'è il 349 238 6666 è il numero per i vostri SMS e WhatsApp. Abbiamo anche una casella di posta elettronica, talvolta non la ricordo, allora la faccio adesso: 2 di denari, è scritto tutto in lettere, 2 di denari @radio24.it. Vedo lo sguardo meticoloso di Peter Bescapè dall'altra parte, che è pronto a partire. Dietro di lui intuisco lo sguardo luminoso. Scusa, posso dire una cosa? A te rivolge uno sguardo meticoloso, a me invia dei messaggi calcistici anche discutibili, oserei dire, ma la chiudo qua perché non è stato molto carino. Ma da cosa parte è accaduto? Sua. Ma vabbè, che strano. Contenti voi? Sentivo anche nella trasmissione precedente che c'erano dei battibecchi, per così dire. Va bene, dietro lo sguardo però meticoloso di Peter Bescapè scorgo quello invece luminoso di Anita Panizza, che questa mattina è la badante di prossimità per il sottoscritto, naturalmente sempre assistita dallo sguardo industrioso di Marco Lombardo. Tutto ciò premesso, Deborah, io farei un po' di giornale radio risparmio perché ho delle cosucce da dirti. Ah certo. Ci dicono spesso di lavarci le mani, ma poi ci ascoltiamo Matteo Rosciani. Ci sono tutte le istruzioni per il bonus vacanze. Già ve l'avevamo segnalato un paio di giorni fa, è apparso sul sito dell'Agenzia delle Entrate, agenziaentrate.gov.it, tutto il riepilogo delle indicazioni, bonus vacanze che si potrà chiedere dal 1 luglio al 31 dicembre. Spetterà a favore delle famiglie che hanno un ISEE non superiore ai 40.000 euro. L'agevolazione, l'ha spiegato l'Agenzia delle Entrate, serve per pagare servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, da agriturismi e da bed and breakfast. Vi ricordo che questo bonus vacanze arriva fino a 500 euro se la famiglia è composta da almeno 3 persone, altrimenti scende a 300 in caso di 2 componenti, a 150 se si tratta di un single. Un'altra particolarità: non viene erogato tutto subito, l'80% è uno sconto e il 20% invece verrà utilizzato come detrazione, quindi come riduzione dell'IRPEF nella dichiarazione del 2000 che presenteremo nel 2021. Un ultimo dettaglio importante: va utilizzato tutto insieme, quindi non si può spezzettare, e si richiede con una app. La app è Io, app dei servizi pubblici, che è resa disponibile da Pago PA. Bonus vacanze al via dal 1 luglio. Verificate prima di partire se la struttura dove vi appoggiate aderisce all'iniziativa. Deborah. Ottimo. Allora, come sapete, in queste settimane il governo ha stanziato tante risorse sotto forma di indennità di vario tipo e ammortizzatori sociali per sostenere lavoratori, categorie professionali in difficoltà economica a causa del lockdown determinato dalla pandemia. Non c'è bisogno che ricordiamo ogni volta tutti i presupposti della crisi che si è generata in questo momento. Ci sono però tante categorie sociali che non hanno avuto la possibilità di accedere ad alcuno di questi ammortizzatori, provvedimenti, indennità, sostegni, chiamiamoli come vogliamo, e allora per tutta una serie di famiglie e di individui è stato predisposto il reddito di emergenza. Allora, l'INPS ieri ha reso noto che è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande del REM. Questo termine nuovo è il 31 luglio di quest'anno, lo ha stabilito l'articolo 2 del decreto legge 16 giugno 2020, il numero 52, in deroga a quanto stabilito appunto in precedenza. La domanda può essere presentata all'INPS attraverso canali differenziati, online, dal sito inps.it, autenticandosi anche in questo caso con PIN, con SPID, quindi anche in questo caso occorre l'identità digitale per fare appunto la richiesta del reddito di emergenza. Vale anche la carta d'identità elettronica e anche la carta nazionale dei servizi. Mauro. Preciso che questo decreto, cara Deborah, che tu apprezzo, hai letto proprio dalla Gazzetta Ufficiale, sì, numero 52, sì, è il cosiddetto decreto CIG. Immagino. No, è il decreto CIG. Ah, non è il rilancio, hai ragione, scusami. Ah, sì, questo vedi. È il decreto CIG perché è quello che allunga, come hai raccontato con dovizia di particolari anche ieri, il termine per la cassa integrazione. E tra l'altro, piccola annotazione, sposta anche al 15 di agosto il termine per la sanatoria colfe braccianti, come l'abbiamo chiamata proprio qui in diretta a Due di Denari. Ti voglio dire poi invece che domani sapremo qualcosa di più del BTP Futura. Magari oggi già potremo chiacchierarne un po' con il nostro ospite tra poco, ma domani alle 10.30 il direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, insieme a Davide Iacovoni, che è il responsabile del debito pubblico, presenteranno appunto la scheda di questo nuovo BTP Futura, che sarà poi disponibile per l'acquisto al retail, cioè ai risparmiatori qualsiasi come me, dal 6 al 10 di luglio. Quindi cominciamo a vedere qualche caratteristica di questa nuova emissione, come quella precedente del BTP Italia, destinata a sostenere i costi della pandemia, i costi derivanti appunto dall'aver affrontato l'emergenza della pandemia. Bene. Il decreto CIG, grazie per avermelo ricordato. Allora, quest'ultima notizia la devo dare io, perché ieri, conducendo Due di Denari, avevo dato conto di una segnalazione che ci ha fatto Adiconsum, che è una grande associazione dei consumatori che si occupa degli interessi e delle tutele di migliaia di consumatori italiani. E sostanzialmente Adiconsum che cosa ha fatto? Ha raccolto le lamentele di molti consumatori che fanno fatica in questo periodo ad accedere al sito di Consap per fare la richiesta del FIR, il Fondo Indennizzo Risparmiatori per le Vittime dei Crack Bancari. E allora ieri abbiamo raccontato questa cosa perché appunto Adiconsum lo ha segnalato nella medesima giornata. Consap a sua volta ci ha chiesto di rettificare un po' il tiro di questa notizia e noi accogliamo appunto volentieri la replica dell'organismo Consap. Ricordiamo appunto è questo organismo che fa capo al Ministero dell'Economia e che si occupa di gestire tanti fondi che vanno ad indennizzare vittime di situazioni di diversi tipi, per esempio le famiglie vittime appunto della strada, oltre al FIR, insomma ci sono tante. Gestiscono anche il fondo Gasparrini, che è quel fondo che è destinato appunto alle famiglie che vogliono sospendere il mutuo, e quindi insomma è una attività molto diversificata. E ieri allora da Consap ci è arrivata questa richiesta di rettifica e precisazione rispetto alle lamentele di Adiconsum. Nell'ultima settimana, dice Consap, oltre 17.000 sono state le domande inoltrate al portale FIR, con una media giornaliera di 2.500 domande al giorno. Solo nella giornata, solo due giorni fa, erano state inviate circa 3.600 domande. Il 15 giugno ne sono state registrate ben 4.000, come a dire i numeri sono tanti, e se che qualche volta, come dire, anche l'accesso non è immediato per l'utente, bisogna anche un po' comprenderlo. Consap ci ricorda che una brevissima sospensione dell'attività del sito Consap si era verificata nel pomeriggio dell'8 giugno, quindi una sospensione effettivamente intera che aveva determinato l'impossibilità di accesso per gli utenti, ma per il resto giorno dopo giorno si viaggia, si lavora con grande intensità accogliendo appunto migliaia di domande. Quindi questo è quanto dovevamo anche appunto rettificare per conto di Consap rispetto alle indicazioni di Adiconsum del giorno precedente. Caro Mauro, qua insomma tutto ciò premesso, cara Debora, stare un po' attenti. Beh, insomma, sì, abbiamo segnalato e risegnalato, è corretto. Poi ci diranno gli ascoltatori naturalmente se riscontrano tutto regolare oppure se c'è qualcosa che non va. Insomma, siamo qui appunto anche per raccontare questo, come abbiamo fatto con altri siti della pubblica amministrazione in questo periodo in cui di interlocuzione digitale con la pubblica amministrazione c'è molto bisogno, e quindi c'è anche molta attesa, molta aspettativa da parte di tutti noi cittadini. A questo punto io ti proporrei un veloce dillo a Due di Denari su un tema che sempre ci sta a cuore e continua a pedalare, per dir così, e poi passiamo alla rubrica del giovedì Investire Informati, ma prima dillo a Due di Denari. Dillo a Due di Denari. Buongiorno, vorrei sapere se il bonus bicicletta, al di là del fatto che l'app non mi sembra ancora che sia stata creata, vorrei sapere se il bonus bicicletta è ottenibile a prescindere appunto dal fatto che non ci sia ancora l'app. Grazie, buona giornata. Sì,